Buonasera a tutti e benvenuti al nostro nuovo appuntamento di Spazio Libro. Il tema di questa sera è il cibo, la sostenibilità e sicurezza alimentare insieme alla cultura dell'attuale, questo è il titolo, e siamo in periodo esposta, terminando, quindi adesso terminerà questa grande manifestazione che ha come titolo Nutrire il pianeta. Una manifestazione che speriamo sia un punto di partenza, un punto di arrivo per una riflessione al di là insomma, delle presentazioni che ci sono state per tutti i paesi che hanno esposto e hanno presentato le loro cose migliori, ma speriamo che sia davvero un'occasione per riflettere di confronto su quella che deve essere la sostenibilità del nostro pianeta per i prossimi anni. E quando parliamo di sostenibilità, naturalmente il cibo è un elemento fondamentale all'interno di questa grandissima categoria. E per sostenibilità c'è un fattore, il fattore territoriale, che sicuramente è un elemento su cui occorre lavorare, perché il territorio intanto è portatore di specificità, di peculiarità, di sapori, di tradizioni, quindi riflette la storia di un posto, di un luogo geografico. E in più, salvaguardando i prodotti del territorio, si difende anche la biodiversità. E poi, naturalmente, c'è anche il discorso del chilometro zero che, quando si riesce ad applicare, funziona in termini di sostenibilità. Per questo, questa sera ci concentreremo sui prodotti culinari enogastronomici, per l'esattezza, di questa terra, e avremo anche la fortuna di avere due persone che operano nel settore, ma dalla parte enologica e dalla parte culinaria, diciamo così, ma non vi svelo di più, poi verranno presentate nel corso di questa serata. Intanto noi converseremo su questo tema, su questo percorso enogastronomico a livello locale, con i nostri due relatori, Elisa Niccoli, che è regista, ma è anche scrittrice, ha pubblicato diversi libri e da molti anni si occupa di educazione ambientale, tiene laboratori, corsi e quindi di sostenibilità anche applicata al cibo, è una convinta sostenitrice dell'autoproduzione, del chilometro zero, della possibilità di evitare quando si può i supermercati, così si risparmia anche sui rifiuti, dell'acquisto il più possibile vicino al produttore e quando non si può magari organizzare gruppi di acquisto solidale di cui sicuramente avete sentito parlare. E poi abbiamo Angelo Carrillo, che è uno dei principali esperti enogastronomici a livello italiano per quanto riguarda la cultura altoatesina. In questo ambito ha partecipato al nuovo movimento enogastronomico italiano, scrive su molte riviste e anche quotidiani di questi temi, e noi lo conosciamo soprattutto dalle colonne dell'Alto Adige, dove scrive con regolarità di vino e di cibo, e abbiamo imparato ad apprezzare le sue puntuali analisi. E a questo punto presentiamo anche la direttrice, la persona della direttrice della biblioteca provinciale Claudio Busta, Valeria Trevisan, questa piccola ma molto attiva realtà che lavora a livello territoriale, in questo caso diciamo con la letteratura e con la ricerca sul nostro territorio, quindi diciamo ben si congegna in questa serata in cui parliamo di territorialità. Do la parola a Valeria Trevisan. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio anche i nostri ospiti. Ecco, la biblioteca provinciale di Bolzano, mi avvio da 5, da 15 anni quasi, si occupa appunto anche di documentare un aspetto del territorio. Abbiamo portato dei libri che possono essere legati a questo tema e, come diceva prima anche Carmelo Marsiglio, siamo attivi in tanti settori e questo era un argomento particolare che ci interessava, non l'avevamo mai affrontato, ma questa sostenibilità e nello stesso tempo l'indagine e la dimostrazione di quanto questo territorio possa offrire da un punto di vista enogastronomico, agganciandoci alla tematica forte che è da un anno che ci trasciniamo con l'Expo, ecco, ci sembrava una scommessa interessante da portare all'interno della rassegna Spazio Libro che ogni anno viene organizzato dalla provincia autonoma e dall'ufficio biblioteca. Queste informazioni passano anche attraverso i libri, ecco, questo è un invito che noi facciamo, quello di documentarsi, di leggere, di scoprire anche quello che una biblioteca può offrire anche da questo punto di vista. Siamo convinti che una biblioteca possa offrire delle informazioni sempre nuove e soprattutto aprire anche degli spazi e degli orizzonti da gustare. Vi ringrazio. ringrazio intanto e lascio la parola ancora a Carmela. A me come è stato che invece dare la parola ai relatori di questa sera, in questa conferenza che vi ricordo si intitola La sostenibile leggerezza di mangiare bene nella cultura dell'Alto Adige. Prego, la parola a Elisa Nicoli. Grazie, che ha già acceso, così non riesco a capire come funziona. Buonasera a tutti, le presentazioni sono già state fatte, bene. Io sono l'autrice in questo caso di 100 calci in padella, un libro edito da Altre Economia, che è una casa editrice indipendente di Milano, per cui ho pubblicato altri tre, quattro, sì, e l'ultimo libro invece lo vedete al centro, proprio senza pesare sulla terra. Senza pesare sulla terra, perché effettivamente la sostenibilità, che è la parola più facile da usare, che spiega in un unico concetto che cosa si intende, anche se a me non piace molto perché è un po' troppo di moda, passa per tante cose. Nell'ultimo libro ho parlato di tutto quello che faccio per riuscire ad essere meno pesante sulla terra. Adesso non è che non peso, perché tutti noi abbiamo un peso, sia come umani, ma anche gli animali hanno un loro peso, cioè per forza di cose dobbiamo accettarlo, quindi perlomeno come ridurre al minimo il proprio impatto. E io questa ricerca parte da anni, forse anche prima che io nascessi, perché comunque ho delle radici in una cultura in parte anche contadina, per cui, o comunque montanara, comunque sicuramente non di spreco, senz'altro. E un po' da queste radici probabilmente nasce anche la mia attitudine e la mia sensibilità su queste tematiche, che è molto forte, tale da aver lottato per anni e anni contro tutto e contro tutti in qualche modo, e aver trovato adesso in qualche modo una sorta di pace, stranamente, perché tutte le mie attività adesso sono diventate assolutamente naturali, come per me è naturale non mettere più piede al supermercato, tranne lo metto ogni tanto naturale perché ce l'ho accanto, però perlomeno è un supermercato di alimentari biologici, è l'unica concessione che mi faccio, però sì, in questo caso si tratta di concessione, in realtà nel supermercato non ci metto piede perché non mi serve metterci più piede. Come posso fare tutto questo? Cerco un po' di spiegarlo nel libro di cui soggetto di questa giornata. Intanto sicuramente la scoperta dei gruppi d'acquisto solidali, quella è stata la rivoluzione vera, perché attraverso i gruppi d'acquisto solidali ci si mette insieme, si contatta direttamente i produttori delle varie materie prime e attraverso di essi si riesce ad aprire non del cibo già fatto, ma più che altro materie prime, come dicevo, di qualità elevata, possibilmente l'agricoltura biologica, non necessariamente col marchietto, perché si basa soprattutto su una fiducia reciproca che si crea tra noi del gas e i produttori. E questa è una cosa anche che dà una storia alle cose che utilizziamo, alle cose che mangiamo. Andare al supermercato e comprare la prima cosa che capita non ha nessuna storia, non ha nessuna profondità. Poi di storia l'esperto, no? Però si tratta proprio di sapere le mani che hanno coltivato quei legumi, le persone che ci hanno creduto in quelle attività, eccetera. Non necessariamente a chilometri strettamente zero, anche se l'attività dei gas autotesini è quella di cercare il più possibile di trovare degli agricoltori qui, il che non è sempre facile, perché c'è un sistema bello stretto qua, soprattutto basato su consorzi che non danno molta libertà ai produttori, stiamo cercando quelli un po' più anarchici, che esistono per fortuna, e quindi in qualche modo si riesce a fare anche quello. Come? Ce n'è uno là. Ce n'è uno qua, perfetto, ottimo. Sia i gas, poi anche i mercatini dei contadini, qua ne abbiamo qualcuno. Il martedì mattina al municipio si possono comprare frutta e verdura locale, ovviamente nei limiti del locale, perché in locale insomma abitiamo abbastanza a nord, quindi più di tanto non è che possiamo permetterci. A partire da tutte queste materie prime che riusciamo a reperire in una maniera di sicuro non standard, perché tutti noi siamo abituati ad andare al supermercato, poi si parte con l'autoproduzione, perché innanzitutto soprattutto autoprodurre significa ridurre un sacco l'immondizia, come dicevi tu giustamente prima. Io appunto entro nel supermercato e la prima cosa che mi viene in mente, oddio, montagna di immondizia, non vedo più il contenuto, vedo soltanto il contenitore. Per cui per me è una spinta grossa questa qua, proprio del ridurre il packaging. E poi per riscoprire che con le nostre mani riusciamo a fare un sacco di cose. Cosa che due generazioni fa, rispetto alla mia, era normalissimo fare. Dico sempre le nostre nonne, non so, quelle nate negli anni 20, 30, sapevano ancora farsi il pane in casa, farsi la pasta in casa, farsi le conserve. Poi più a sud d'Italia è ancora rimasto un po', forse qui forse in ambito tedesco forse c'è un po' più di cultura di autoprodurre, c'è anche più contatto con la natura, c'è anche la capacità di trasformare piante spontanee, ad esempio. C'è una cultura anche dell'autoproduzione più forte. C'è una cultura probabilmente dell'autoproduzione più forte, forse i madrelingua italiani sono un po' più sradicati da questa cosa, e sono un po' più sradicati in generale qui perlomeno, quindi magari si è perso, ha già ragione. Urbanizzati. E sicuramente molto urbanizzate, sì, è molto legato anche al fatto di essere cittadini, l'incapacità di farci le cose, perché viene a mancare il tempo, perché non sappiamo come organizzarci, perché i supermercati sono accanto a casa, sono comodi, e soprattutto è una questione di tempo. Tutti quelli che mi dicono, ma come fai a produrre tutte queste cose? Ho una questione di organizzazione di tempo e di priorità. Ammetto che sulla parte di cibo, a parte adorare fare marmellate, conserve, eccetera, mi baso soprattutto sull'autoproduzione. Sul baratto. All'interno del gruppo di acquisti solo acquisto solidale conosco un sacco di persone che fanno questa attività come me, per cui sì, io adoro fare cosmetici e saponi, e barattiamo cosmetici e saponi per la passata di pomodoro, ad esempio, che non faccio mai, quella grande baratto classico. Quindi non occorre necessariamente anche sapere tutto, ma magari fare le cose che ci appassionano di più e conoscere le persone con cui fare scambi. Questa è un po' la mia filosofia. Bella filosofia. Bella filosofia, dicevo. E posso chiedere una cosa? Ad Expo sei stato, saresti andata o cosa ne pensi? Posso permettermi di... perché immagino che tu non sia proprio favorevole, però in generale cosa ne avresti pensato? Expo come tema in sé, al di là delle contraddizioni che ci sono. Mamma mia, che domanda imbarazzante, no? Nel senso che diciamo che ho scelto di evitare di pensarci, perché sennò mi viene un nervoso assurdo, perché appunto è una fabbrica di contraddizioni immense, e già a partire dagli sponsor, la Coca-Cola e il McDonald's non possono essere sostenibili, non ci prendiamo in giro, per cui da lì poi non ce la posso fare. Veramente ho un... Sì, conosco questi punti, queste perplessità. Ma una persona che si occupa di gastronomia, di cibi, di cose, quando va, si trova con 150 paesi che propongono, raccontano la loro filosofia, la loro storia, la loro gastronomia, andarci in un certo senso io l'ho visto come un obbligo, oltre che un interesse personale, e quindi una sorta di scuola. Qui se è un bambino, non puoi. L'Expo è stato Luna Park e università allo stesso tempo, quindi alla scuola non ti puoi rifiutare di andarci. Questo è stato il mio approccio principale. Poi capisco le perplessità che ci sono state, anche il rapporto con quella che è la cultura, la tradizione gastronomica dell'Alto Adige. Sì, comprendo comunque il punto di vista, sicuramente, cioè la possibilità di vedere tutte le varie. Io sono molto appassionata anche di altri tipi di cultura alimentare, mi affascinano. Cibo cosiddetto etico mi affascina un sacco. Magari non andrei io a conoscerlo, ci sono tantissimi immigranti e immigrati che hanno aperto i loro ristoranti, soprattutto a Milano ce ne sono tantissimi. Preferirei magari andare in... Sì, è molto meno comodo, non so, che devo andare a spasso in giro per tutta la città. Qualcosa abbiamo anche qua a Bolzano, un po' troppo poco ancora per i miei gusti, però sì. Ma comunque capisco il punto di vista, sicuramente. E allora mi passi la palla così? Sì, mi aggancio a due cose che hai detto per parlare di due aspetti di quello che è la gastronomia in Alto Adige. In questo momento toglierò il termine Alto Adige, non per una questione, ma per usare un termine che usa Rakiewicz, che è un uno studioso importantissimo, il direttore del museo di Castel Tirolo, che ha fatto dei libri molto importanti che si occupano di gastronomia, che è però Tirolo meridionale, perché in definitiva l'area culturale, l'area sociale si riferisce al, va riferita a Tirolo, e forse capiamo alcune cose della gastronomia che sono importanti. Allora, sostenibilità, la cultura gastronomica, la cultura agroalimentare del Tirolo meridionale, dell'Alto Adige, di questa terra, la terra tra i monti, Tirolo, terra tra i monti, è naturalmente profondamente autosostenibile, è sempre stato sostenibile perché era assoluta autoproduzione. Ci sono due elementi che sono la parte urbana, cittadina, Bolzano, Merano, e poi c'è la montagna. La montagna che è poi il cuore stesso di questa terra, dove la produzione è da sempre, è stata, ma fino a pochi decenni fa, è stata sempre sostenibile, autarchica e dedicata all'autoproduzione. L'unica cosa che si è sempre, che non potevano prodursi i contadini di montagna in Alto Adige, era naturalmente il sale. Tutto il resto è autoprodotto, con un nucleo centrale che è il Maso. Ecco, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, il Tirolo meridionale, l'Alto Adige, è una monarchia basata, fondata sul Maso, che rappresenta il nucleo di sviluppo lungo quasi un millennio. Ora, stamattina ero alla presentazione della guida dell'Espresso, del piccolo guida dell'Espresso, in cui io collaboro da parecchi anni, che racconta l'Alto Adige, che racconta questa terra, che è comunque una terra di meraviglie gastronomiche, di ristoranti importanti, anche molto importanti. È una cosa nuova. L'Alto Adige non è mai stata una terra vera e propria di gourmet, non fa parte della cultura. Negli ultimi 20 anni c'è stato un grandissimo sviluppo della ristorazione, legata soprattutto a un concetto di sviluppo turistico, ma non è quasi mai stato così. La cultura agroalimentare dell'Alto Adige è sempre stata molto semplice, basata su pochi ingredienti. Io lo chiamo il quadrato: latte, pane, speck e vino. Speck e vino, oltretutto prodotti elitari, rari, prodotti che avevano, se mi darete tempo di dirlo, un uso molto, molto particolare nella gastronomia, diverso, profondamente diverso da quello che conosciamo oggi. Allora, vi ho detto, la base del mondo agroalimentare della montagna del Tirolo è il Maso. Il Maso, in cui crescono le famiglie, si sviluppa, si coltiva, si custodisce il terreno, il territorio, dalla valle fino alla montagna. E abbiamo per esempio il Maso Chiuso, che è una evoluzione del ruolo sociale che ha il Maso. Il Maso è il nucleo centrale che poi viene istituzionalizzato attraverso il Maso Chiuso. Ma qual è l'importanza del Maso? È il luogo in cui si produce, indivisibile attraverso la istituzione del Maso Chiuso a un certo punto, ma che già prima è così. Il Maso viene affittato, i contadini hanno dei periodi di affitto del Maso, di quel terreno, lo lavorano e da lì traggono il loro sostentamento. Era così 500 anni fa, è così ancora oggi buona parte. Il turismo, gli alberghi, così sono tutti basati su questo totem territoriale fisso che è il Maso. Persino la differenza tra il rapporto con il mondo agroalimentare italiano e tedesco è basato su questo elemento, perché il mondo tedesco, per quanto possa essere stato un mondo povero, un mondo di difficile sviluppo, un mondo molto anche spesso arretrato, aveva una base, la terra, aveva come sua proprietà la terra. La terra è stata la ricchezza, è tutt'oggi la ricchezza, la forza del di questo, della popolazione e dell'economia di questa terra. Il mondo italiano è più diverso perché, essendo arrivato più tardi, non ha questo profondo radicamento nella terra, è una popolazione urbana, statale, spesso di piccolo artigianato, comunque di dipendenti pubblici, così, e quindi non ha questo radicamento. La forza del mondo tedesco è sempre stata la terra. E la terra però ha un andamento, è stata la base della una base economica e una base culturale. La base culturale naturalmente sono le produzioni agroalimentari, che hanno uno sviluppo sociale che va dal basso all'alto. Nelle valli, nella fondovalle, quando partiamo a parlare del pane, si coltiva il grano, verso Salino e verso l'alto si coltiva la sera. Il latte è il prodotto che si consuma in valle e si trasforma in alta montagna. I due cardini dell'alimentazione della gastronomia altoatesina sono il latte all'inizio, il latte e il pane, sono i cibi quotidiani. Il pane, nel senso il pane di scorta, il latte, non per la produzione di formaggio come si crede, ma soprattutto per la produzione di burro, e poi dopo con quello che rimane dalla trasformazione del formaggio, della scrematura dell'acqua, trasformarlo in burro che dà energia, la produzione di alcuni tipi di formaggi che non sono neanche dei veri e propri formaggi, come il carocchese. Sostenibilità. Ma una cosa che mi ha sempre affascinato rispetto alla tradizione locale e in generale anche nel resto d'Italia è che tipicamente si tendeva a fare dei pasti anche con recupero del cibo, e qui il pasto per eccellenza dove si recupera del cibo è il canederlo. Pane raffermo, latte, speck, è quello di cui hai appena parlato. Però... Sì, anche se c'è da dire una cosa sulla questione dei canederli, soprattutto usiamo il termine canederlo perché è un termine italianizzato perfettamente valido. Adesso pugnatori tendono a usare il termine knud, ma secondo me in italiano va usato, non si dice München ma si dice Monaco, perché è un termine entrato nell'uso quotidiano e soprattutto l'uso storico attraverso la sua italianizzazione nel Trentino. Canederlo, bisogna stare attenti, che non è recupero vero e proprio, perché per il canederlo viene usato nella tradizione contadina il pane più prezioso. Ah sì? Certo. Non si fa, storicamente si usano le farine di grano saraceno, varie cose, ma storicamente il pane bianco, la rosetta, viene utilizzata per fare il canederlo. Il pane nero, il pane di segale, i cosiddetti pani di scotto sono quelli che si usano per l'alimentazione, la colazione, si usava la colazione, diciamo. Il canederlo, il pane bianco, con della farina bianca, viene usata per i malati e per fare i canederli. Questa è una cosa. Ho scoperto qualcosa di una cosa un po' particolare. Perché in realtà in molte zone d'Italia c'è sempre l'uso dell'evitare lo spreco, una cultura soprattutto contadina e povera, di tipo la panzanella, tipo ci sono anche dei dolci a base di pane che, da quello che ne so io, sono sempre basati su un recupero. Certo. Quindi pensavo che anche qua comunque. Diciamo che si usa, secondo me, da quello che io ho capito nei miei studi che ho fatto sulla, il recupero riguarda più quello che ci si mette dentro, l'impasto, no? I resti di salumi quando ci sono, le erbe, le cose, quello che avanza la cucina, ma il segno, il pane, che è fondamentale, il pane bianco. Allora non dovremmo usare il pane da fermo per farli. Il pane, si usano le rosette, no? Che sono poi una cosa, un prodotto che arriva a metà dell'Ottocento in Alto Adige, perché con l'inizio del turismo altoatesino, quando nel Meranese cominciano ad arrivare le prime, ci sono i primi flussi di turismo, i nobili che scelgono questa località per il soggiorno, per le cure, per le cure con l'acqua e così. Allora cominciano ad arrivare anche, come spesso, visto che la cultura pugliese è dominante, vuole trovare dove va i suoi prodotti chiari, cominciano ad arrivare anche i fornai, quelli, non quelli che già ci sono, che fanno i panini, la simula, ma quelli che fanno il panino più evoluto, quello alla viennese, quindi il Kaiserstemmel, cioè le rosette e questi prodotti più particolari. Quindi nel 1800 c'è un panino bianco, che però viene usato solo, è così raro, viene usato solo per i calendari. Poi questo va in montagna, poi magari invece del pane raffermo, e poi il pane raffermo, tanto poteva essere rimasto delle popolazioni così, pochissimo. Il pane raffermo era farina, erano impasti, i canesi li hanno fatto con degli impasti di farina, più che con il pane raffermo stesso tagliato a cubetti, raffermato con i farini come lo conosciamo oggi. Strano, ma è vero. Infatti sì, è strano, curioso. È curioso, noi siamo convinti, tra le tante cose che siamo convinti, per esempio lo speck. Uno dei tanti, lo speck come lo conosciamo oggi, lo si fa dagli anni 70, cioè lo speck di coscia, che è un prodotto che viene lanciato sul mercato da Senfter e da altri produttori per conquistare il mercato italiano, imitando i prosciutti italiani, cercando di conquistarsi quelle fette di mercato. Vi è il turismo che nasce anche in Italia e si affronta il mercato italiano e si dice diamo un prodotto simile. E quindi si comprano anche le cosce dall'estero, dall'Olanda e così per fare una produzione industriale di un certo livello, capace di, infatti è uno dei prodotti più di successo, ma in realtà non è così. Fino agli anni 70 lo speck del contadino è la mezzella tagliata che viene usata, e lo speck alla merenda non esisteva. Lo speck è un prodotto che non è come il pane bianco per fare i canetri, è solo per il pasto. Si taglia un pezzetto, si prepara, quando c'è il canedro di speck, naturalmente, che è una cosa preziosa, viene tagliato e viene messo nell'impasto dei canedri. Sono dei luoghi comuni di cose che si la memoria che si è persa di questi prodotti, speck, cioè tagliare lo speck a merenda, fase giù, non c'è mai stato, un prodotto troppo prezioso, lo davano come pagamento ai proprietari, ai nani più grandi, lo davano in pagamento ai loro garzoni, ai knecht, e questi se lo portavano via, prendevano nell'osteria del paese e se lo facevano cucinare o preparare dall'oste, perché la carne si mangiava, ma la domenica nell'osteria, infatti in tantissime paesi, c'è la festa patronale, cosa si fa? Qual è il piatto più tipico delle feste patronali? Lo stick è una di quelle cose da Expo che non ti piacerebbe, che non ti dovrebbero piacere. Lo stick è una roba bruttissima. Ricordati, lo stick è una cosa buona da mangiare, ma ma che ogni volta che lo guardo mi dico, ma questi poveri maiali, quanti maiali devono avere come i fiori per tagliarli per gli stessi poveri stinchi. Vabbè, a parte questa cosa qua, c'è la sour soup, no? La sour soup, cioè le trippe, quella non è il piatto che si fa in casa, si fa all'osteria, si mangia la domenica in osteria dopo la messa, si fa adesso il Valsalentino ancora in tanti altri paesi. Mai sentito. Una trippa in umido, insomma, con che ci mette l'aceto e queste cose. Con farina pigiata, no? Che certo, perché lo fai, ma sono varie varianti a seconda delle varie. Questa è una di quelle cose un po', uno di quegli elementi culturali, della cultura gastronomica di questa terra che si è persa, che è stata, che si è evoluta, diciamo, non è che persa, si è evoluta. L'importante è ogni tanto ricordarsi di come erano state le cose. Perché io non sono contrario al nuovo, per esempio su Expo, per esempio, non sono contrario a cose nuove, ma l'importante è riuscire a mantenere il ricordo di quello che era l'origine delle cose. Angelo, la tradizione dei dolci in Francia, in passato? Allora, Kekse, parliamo dei biscotti natalizi, secondo voi da quando li salgono? Facciamo un piccolo sondaggio. Dai mercatini di Natale, no, quelli sono, ci sono stati spesso, ma se poi vai a vedere in Germania i mercatini sono degli eventi piccato gastronomici, sono tanti stessi. La prima volta in cui viene citato il termine Kekse è nel 1905, perché Kekse da cake, il termine inglese per biscotto, no? Il termine per ricordare che ci sono dei prodotti nel 1891, una di queste grosse ditte di biscotti tedesche importa una tipologia inglese, traduce il termine, diventa Kekse. Questo termine è praticamente di uso comune. I biscotti, quelli che noi conosciamo, questi meravigliosi biscotti natalizi che noi facciamo, sono una roba recentissima, cioè, a parte l'epoca che è del 1600, è antichissimo, anzi è ancora più antico, adesso non ricordo esattamente, i biscottini, quelli belli, vediamo, non ci sono. Come fa la... Il Krapfen è un discorso, adesso ci andiamo anche. Il Krapfen è una cosa su cui torniamo anche per lì, perché è divertente anche quella. I biscotti natalizi sono una cosa abbastanza recente, diciamo del secolo scorso. La tradizione del dolce da offrire all'ospite di casa col caffè è molto più antica, ma non è una preparazione di biscotti, di piccola pasticceria. Quella è una, come spesso è avvenuto nella tradizione austro-ungarica, dalla famiglia nobiliare discende poi dopo nell'uso comune. In realtà si usavano sin dai tempi dei Germani, praticamente questi dolci. Lo Stollen, il Weihnachtsstollen, il vero dolce natalizio, il dolce delle preparazioni diciamo quotidiane, delle proprie preparazioni quotidiane erano questi Früchtebrote, cioè i pani di segale con dentro nell'impasto il Kloazen, cioè le pere secche e questi prodotti che sono il dolcificante vero e proprio. Un tempo si usavano le pere, si facevano seccare, si facevano il Kloazen, si pestavano questa farina di pere dolciastra, veniva messa nell'impasto e diventava un po' dolce. E diventava proprio ed erano usate per un rito fondamentale della cultura tedesco tirolese, che è quello del caffè nel plexi con quel dolcetto. Quello era il fondamentale uso quotidiano del dolcetto. Poi c'è stata un'evoluzione dall'alta pasticceria veneta, pian piano se ne discesa giù al popolo l'uso di fare biscotti anche perché biscotti, farina bianca, prodotti così, sono una cosa che fino alla fine del 1800 non esisteva, no? Come non esisteva un largo uso della farina bianca, perché va sempre ricordato che la società tirolese, la città di montagna, non è divisa orizzontalmente, tu sei qui, è divisa verticalmente. Quindi, terra in pianura, la ricca pianura bolzana, dove ci sono i consumatori di pane bianco di farina, che si sa che diventa farina nera, farina meno pregiata dal punto di vista del sapore, farina di segale, farina di avena, orzo, eccetera, per tutti gli usi che se ne fanno. Così dicevamo, il dolce, il dolcetto natalizio, si impone con la crescita del benessere nel mondo delle società tedesche, si diffonde naturalmente, prima riprendendo l'antico uso di offrire dei dolci, quei dolci che sono già di epoca germanica, romana, piccole cosettine di dolcetti, diciamo, dei piccoli pani dolcificati, non sono veri pochi dolci, insomma, dolcificati con la frutta o con questo prodotto che sono le pere seccate, che si fanno con le valvenosa, e poi seccate nel forno del pane dopo aver fatto il pane, si mettevano dentro, tagliate, poi dopo si seccavano sopra, poi pestate, ne usciva una farina con cui si dolcificavano, si faceva un krapfen e tante altre cose. Mentre stiamo parlando, mi è venuta una questione in mente, una specie di dilemma, perché io sono estremamente affascinata sia appunto ai cibi etnici, eccetera, sia anche ai cibi tradizionali. Sì. Da una parte possono essere altamente sostenibili, come magari appunto recupero di scarti, eccetera, dall'altra si scontrano contro una nuova cultura alimentare che si sta diffondendo da una ventina di anni, forse, che è un po' l'alimentazione naturale, il mangiare meno grassi, il mangiare vegetariano, addirittura il veganesimo. Tutte queste cose qua si scontrano un po' con la tradizione, perché la tradizione era burro, qui soprattutto burro, carne, un sacco di consumo di calorie perché lavoravi nel campo. Certo. Adesso tutti lavoriamo nei campi, anzi molto pochi. Infatti adesso ti mangiano formaggi che non ci sono mai stati da tua. Sì. Formaggi, l'unico prodotto grasso che tu era. Il burro? voi te ne volete vedere questi bellissimi formaggi di latteria che ci sono, sono una ricetta come moltissime altre cose. Adesso il tema che c'è il filo conduttore è questa cosa qui, come sono cambiati gli usi e costumi della gastronomia tirolese, altoatesina, ma anche trentina e parte e così via. E i formaggi non ci sono mai fatti naturali. Il latte serviva per fare una cosa, due cose: burro, il burro di consumo, quindi per dare l'energia e con cucinare fritti naturalmente, perché serviva energia, serviva cucinare il migliore di pomante, e poi con quello che rimaneva dalla scrematura totale del latte si faceva il crocchi. Che lo significa per un formaggio di riso? Per un giorno questo devo uscire fra un po' una cosa interessante sul crocchi, ma ancora non posso dire, non promesso. Comunque il formaggio significa formaggio di riso. Il grau che senti non è un vero formaggio, no? io e Gabriele De Luca lo chiamiamo il cacio primordiale, perché non viene fatto col cacio, è acidificazione, cioè una sorta di mesto fermentativo del latte, non del siero, del latte scremato. Se le condizioni sono giuste si acidifica, precipita la proteina, la caseina, quello che è. Sì, e poi questa massa si prendeva, si metteva insieme, va bene e meglio, si metteva lì 2-3 settimane, cominciava a lavorare, a diventare, a puzzare, a trasformare, diventava il formaggio. Ed è uno dei formaggi più magri. Credo in assoluto il formaggio più magro che ci sia, 2% di grassa, diciamo, insomma. Altro che light, questo light c'è da 10-15%. Il Grauchese è in assoluto il formaggio più magro che c'è. Questo formaggio era il vero formaggio di tutto il cosiddetto Tirolo meridionale, tranne che in Valle Nostra, però le ragioni, vicinanza con la Svizzera e quindi passaggio culturale tra casali, principalmente c'era il formaggio stempio, che è un formaggio, l'unica toma vera esistente nella tradizione gastronomica dell'Alto Adige, che veniva commercializzato, trasformato in 3 mesi di alveggio e così via. Tutto il resto che abbiamo conosciamo è formaggio di latteria, una cosa bellissima, sembra una cosa, in realtà una cosa bellissima, perché fa parte di tutta quella compartimentazione che alla fine dell'Ottocento subisce l'economia agroalimentare del Tirolese, con la fondazione delle cooperative, cooperative che riguardano il vino, cooperative che riguardano il formaggio, cooperative ortofrutticole, naturalmente. E lì cominciano a dire: cosa facciamo adesso? Dobbiamo sostenere tutti i nostri contadini, cosa facciamo del latte? Cominciamo a fare formaggio, cominciamo a fare yogurt, cominciamo a fare tutti quelli che hanno poi una pregi più o meno alti, più o meno bassi, ma sono dei prodotti molto buoni che si evolvono e danno quella cosa fondamentale è il reddito, e quindi il mantenimento della sostenibilità dell'agricoltura di montagna e del maso, quindi tutto ruota di nuovo. Torniamo in qualche maniera al concetto iniziale di quello su cui si basa la cultura, l'economia dell'attuale, cioè il maso, l'unità sociale ed economica di questa terra. Ascoltare quello che dici mi viene da pensare che cos'è la tradizione a questo punto, cioè è una cosa in continua evoluzione alla fine. Quello che pensiamo, questi biscotti natalizi, pensiamo a una cosa recente. È una cosa meravigliosa, perché noi pensiamo che sia una cosa tradizionale, invece spesso non è, una cosa aperta continua. Quindi si potrebbe anche andare in una futura tradizione, nel 2100 sarà tradizione mangiare tutti vegani, potrebbe diventare così. Certo, tra 20 anni la tradizione sarà, credo, mangiare i famosi spaghetti a ragù del rifugio, o del rifugio, che è una cosa strana. Non ho capito. Allora, l'evoluzione del prodotto della gastronomia, la cosa che come tutte le terre intelligenti assorbe moltissimo, tutto ciò che è vendibile, naturalmente. Negli anni 70, io accenno sempre così un po' spiritoso, anche se si fermava poi dopo al rifugio o alla stazione, si mangiavano i famosi spaghetti a ragù, che però non erano spaghetti a ragù, erano spaghetti con una salsa di carne, che non è una cosa brutta, chiccia così, no, perché c'è un elemento che la trasforma in un pane. Piatto quasi tirolese, che è il fiocco di burro sopra, la magia del fiocco di burro che ne altro, ne trasforma il sapore, ne ammorbidisce, lo rende più grasso, più la vorrei fare mio padre, scusate, lo trasforma in quei vellutati grassi sani di prodotti che si mangiano volentieri in un altro anno. Quello è il piccolo elemento che fa sì che quel prodotto diventi patrimonio della tradizione tirolese e altoatesina. Ecco, sì, magari se lo si mangia dopo aver fatto un sacco di sport in cima al rifugio potrebbe essere digeribile. Io devo dire che a quell'età, negli anni 8, 10, 12 anni si digeriva quasi tutto, qualsiasi potevano essere mattoni o blocchi interi di spezzi, si digeriva tutto. Diciamo che sono delle cose che oggi un po' meno. Sì, diciamo che nel mio libro effettivamente cerco di parlare più di alimentazione naturale. Certo. Anche se c'è scritto come farsi il burro in casa, perché è un sacco divertente farsi il burro in casa. Anche perché tutti si facevano il burro in casa. Sì, in realtà è quando monti la panna, adesso te lo puoi fare anche sbagliando a montare la panna ti viene fuori il burro, quindi è una cosa talmente banale. È meravigliosa il caffè del burro, insomma, è della sì, l'autoproduzione, come dicevamo, l'autoproduzione era tutto nel mondo contadino tedesco, è buona parte ancora in tanti posti dove c'è ancora l'orgoglio nel mondo tedesco, perché nel mondo tedesco la cultura verde, la cultura della sostenibilità è così forte, perché si rifà a una tradizione antica, a un bisogno di rispetto, di comunanza con il mondo che ci circonda. Da noi, per i tirolesi, per noi tirolesi, per noi altoatesini, è anche se sui tirolesi italiani lo capiamo meno, ma sui tirolesi tedeschi è fondamentale, è un rapporto quasi spirituale con la montagna. Per poi dire qualsiasi cosa vedi qua, gli do, ma togli la possibilità di farsi la gita in montagna e gli togli la vita. Davvero, perché c'è un rapporto simbiotico antichissimo con questo, con le montagne, con la sua cultura, con le forze antiche spirituali del bosco. È meravigliosa questa cosa qui. Però l'autoproduzione di speck in casa adesso mi sembra un po' steggiata, se per autoconsumo ok, ma rivendere lo speck prodotto in casa dai propri maiali mi sembra che sia problematicamente. Sì, non sì, sì, è molto difficile. Noi abbiamo qui un giovane ex sciatore che io ho portato qui due elementi della cultura gastronomica, fondamentali, che sono il vino est, quando è rimasto un altro del vino spaccato con il vino, ha finito anche su questa cosa qui, e poi lo chef. Lui era una ragazza, un ex lavoro, campione di sci, che ha messo attaccato gli sci a chiosi, senza fare specchio. Uno specchio, non uno specchio qualsiasi, così, uno specchio comprando, che ha messo a dare vari maiali, a macellarli, a trattarli bene, a fare tutta una serie di cose che lui poi magari ci accelera un attimo, e lo fa in una balsamettino, e non su balsamettino basso, ma proprio pelle, si chiama Kral Benjamin, poi piace tanto, è lui. Quindi, lui lo trovate a Piazza Mazzini tutti i martedì, il suo banchetto, il suo spec, ma anche delle cose moderne come il salame cotto, un prodotto più buono dell'altro, e l'ho detto fammi una cosa, vieni qua, fai vedere che cos'è il vero spec, quello di una volta, quello della mezzena, quello dove si cerca il pouch, la pancetta, dove c'è sia la coscia, ma ci sono tutte le varie parti sfruttate, cosa che naturalmente da partire dagli anni 70 si è persa, perché lo spec diventa quello che troviamo, c'è nel mercato, c'è la sua rispettabilità, è un'industria, cosa, c'è tante cose positive anche quello, ma naturalmente è un po' diverso da quello che si faceva una volta. Poi nella cultura tirolese ci tengo così tanto che abbiamo fatto dei progetti come il Bauernspeck, cioè lo speck del contadino, che hanno cercato di salvaguardare queste cose. Poi ci sono alcuni singoli che lo fanno per conto loro, perché comunque come dicevi tu inizialmente, i consorzi sono forti, se tu non stai con me, se tu dai, fai le cose per conto tuo, come nel latte, se tu produci il latte per conto tuo, poi a me non me lo dare più, perché così è forte l'esigenza della cooperazione, di non tradire il concetto cooperativistico fondante dell'economia, per esempio, che chi sta fuori deve stare fuori, basta, più. Non è una cosa semplice, non è una cosa simpatica, è una cosa che io capisco di base, ma anche se, come dico spesso, a questi consorzi mi piacerebbe, cioè il prodotto di nicchia mi fa del male. In realtà traina tante cose, è successo per esempio nel mondo del vino, quelli di New York, che saranno dopo domani alla fiera di Bolzano nell'ambito di Autoctona, tutti 73, una settantina sono, che è una cosa, un fenomeno anche questo di 20 anni che si è fatto. Prima c'erano solo cooperative sociali o cantine private. Cos'è il vino? Un altro discorso di vino. Chi è che beve il vino a pasto? 1, 2, 3, 4, 5 e vari anni. Allora, sappiate che fate una cosa, che un tempo i contadini non facevano, sembra strana anche questa qui, ma bere vino al pasto non esisteva, o non esisteva quasi, è una cosa abbastanza insolita. Al pasto si beveva latte, acqua, qualche sciroppo, d'acqua, che così, acqua e latte si beveva. Il vino era riservato alla messa, ai malati e all'osteria, al Gasthaus, dove l'uomo di casa andava, si incarava come mio nonno, il suo nonno mangiò tutto, insomma, ne beveva anche tanto e andava a berlo all'osteria, lo beveva il vino in casa, un prodotto molto raro, molto prezioso, un po' come lo specchio, così era riservato a determinati riti e determinate cose, non era bevuto a pranzo. Questo era un mito. Oggi naturalmente le cose sono cambiate, fa parte della nostra cultura, mangiare e bere insieme un tempo, però così non era. Il vino dell'Alto Adige era uno dei più, fino al 1850, per parlare di quella data, dell'età d'Ottocento che avevo accennato prima, in cui cominciano a cambiare le cose, arrivano i fornai sull'onda del turismo nordico, che arrivano i fornai, arrivano anche i birrifici. Più era il 1867, mi pare, quando viene fondata la posta, la birra non si faceva. Abbiamo un prodotto, anche questo è un prodotto recente, che è una tradizione acquisita recente, ma è solo vino, o vino e basta. Arriva perché naturalmente c'è un turismo, c'è la ferrovia, c'è la possibilità di scambi più veloci con l'Austria, con la Germania, anche in parte. E allora c'è la necessità di riprodurre qui, per sulla scorta del turismo, la produzione di birra, offrirla anche viva qua. Perché era peggio, allora erano peggio degli italiani quando vanno, che un tempo andavano all'estero, volevano trovare gli spaghetti in Cile, volevano trovare gli spaghetti negli Stati Uniti, queste cose così. Erano tesi, venivano qui e naturalmente volevano il Kaiserstein, volevano la Wienerschnitz, volevano la loro birra anche. Quindi poi si è imposto qui anche questo regime birraio, scomparso per lungo secolo, per quasi un secolo, per 50 anni è rimasto quasi monopolio di una sola marca, e poi negli ultimi 15 anni si è molto ampliato e sono nati questi benefici, queste birrerie, micro birrerie, che stanno facendo anche un buon lavoro, ci sono due tre libri qua. Io volevo tornare ai maiali. Beh. Che stare in un consorzio, adesso non so esattamente come funzioni poi con lo SPEC, più che altro ci sono grandi industrie che di sostenibile secondo me non hanno assolutamente niente, quindi ben venga poi la nicchia che fa lo SPEC, che allena i suoi maiali con su determinati criteri eccetera, perché se no mangiamo SPEC di maiali che arrivano da chissà dove, che sono state allevate in qualche consiglio. Olanda, Germania, che è meglio, se devi fare un milione di corni di buffer rispetto che hai bisogno di 300.000 maiali su questo piccolo territorio, sarebbe una cosa insostenibile. Meglio che tanti maiali, sì. Però effettivamente ti crea dei problemi a proposito di sostenibilità enormi, nel senso che però crea anche tanti stinchi di maiali, che però come si mangia la festa campestre, che quelli da lì arrivano di cui ordino dei camion per le feste campestre, dei camion interi di stinchi di maiali li portano là, quelli che si mangiano le feste campestre, cosa sono tutti i maiali, sono tutti le parti, cioè gli stinchi vengono da lì, insomma, però anche le costine di maiali, scusate se lo dico, ma sono tutti con le cosce ci fanno lo spec. E poi dopo i prodotti di rimanenza che sono costine, stinchi di maiale, così arrivano, sono tutti i resti che noi beatamente, purtroppo beatamente ci parliamo e di cui tanti italiani sono entusiasti. Stinchi di maiale, è un buon prodotto, ma non fa parte, è un effetto secondario della produzione, diciamo. L'effetto secondario della produzione di specchio di fuori. Quindi anche il Würstel è stato importato, certo, 1840. No, 50, certo. Forza. Questi resti. Il Würstel adesso lei mi ucciderà adesso, che non mi ucciderà. In realtà il Würstel ci piace tanto ai bambini. Perché il Würstel in realtà c'è dentro un po' di tutto. E vedete questo tutto, con questo un po' di ossa, cose varie, questo tutto è così ricco di cose che comunque c'è una bisogna sempre ascoltare il proprio corpo quando si quello che dice, quello che fa, chiede il nostro corpo, bisogna essere, il nostro corpo ci dice, giusto, mi piace, perché mi piace? Cioè, chiediamoci perché mi piace, no? Tanti bambini, innocenti, no, povere, che tu piace di giusto, perché mi trovo un prodotto molto ricco di cose strane, di cose, di sostanze malamente amalgamate, cose, però è così, se no non ci piacerebbe tanto, scusami. Non tira fuori il naso di coltello, però. Sì, diciamo che quello proprio di sostenibilità non è nulla. Sì, quello è è come fare il sapone con il grasso animale, più o meno. Non si butta via niente, però effettivamente quello che c'ha alle spalle è agghiacciante. Diciamo oggi se ne abusa leggermente un tempo, era un ciclo molto virtuoso anche, nel senso che oggi se ne abusa forse, se ne abusa nella stessa maniera che più si abusa, quindi si abusa di questi stinchi di maiale, nel senso che ce ne sono tanti, si incrementa la produzione, si abbattono i costi dell'allevamento del maiale, e quello è il vero incubo, quella è la vera cosa, e il vero rischio, come ci insegna Expo, è che abbassare il prezzo di un prodotto, lavorare sul prezzo del prodotto, quindi non comprare più, cioè che costano un po' di più ma sono tanti più buoni, sono tanti più buoni, cosa fare? Abbassa sempre di più la qualità. E consigliere anche a pensare perché ultimamente non si dice che abbiamo cresciuto crudo decente in Italia, non è uno scherzo, strani quelli di fasciare, perché comunque i produttori sono sempre più costretti a lavorare sul prezzo, a chiedere a chi gli fornisce la materia prima, magari di andare a cercarsi i maiali in Austria, in Germania, cosa, per tenere bassi prezzi. Per tenere bassi prezzi bisogna andare a mangiare delle schifezze, bisogna andare a fare l'allevamento di massa, ma è colpa anche nostra, noi consumatori, che quando guardiamo le cose nel supermercato diciamo che no, mi dia questo, no, questo costa un euro di meno, lo prendo, ma che costa un euro di meno? Non saranno certe portate promozionali. Ci vendono un euro di meno, 50% di meno di qualità, di solito. Sì, infatti è una cosa che tutte le persone mi chiedono sempre, ah che bello l'autoproduzione, così risparmiamo. Sì, per carità, ma non deve essere quello l'obiettivo, perché risparmiare appunto ha dei costi enormi, magari non noi personalmente nel nostro portafoglio, ma dei costi enormi a livello ambientale e sociale, poi non dimentichiamo anche per chi ci lavora. Se una cosa costa poco, troppo poco, c'è qualcuno che non viene pagato, è inevitabile. Sì, o c'è qualcuno che ci guadagna tanto. Anche. Quindi le cose giuste hanno il loro prezzo. Io quando mi contestano qualche critica, qualche diciamo recensione di ristorante, dicendo quanto costa, ma io sono andato in quest'altro posto, ho mangiato pochissimo, ho mangiato tanto, ma questo è un mito per sfatare. Non si può mangiare bene e spendere poco, non solo vietato dalla mia legge personale, è vietato in ogni caso dalla legge del buon senso. Si può mangiare bene e spendere il giusto, ok? Non si può pretendere di mangiare bene pesce magari con 5-7 euro. Quando vedete una cosa qui, il 99,9% di volte vi stanno dando una mezza fregatura. Magari andate in un altro posto e spendete 5 euro in più, ma tendenzialmente è probabile che vediamo il 100% in più di qualità su quel prodotto. Attenzione, questo è sempre un. Quindi vi dico, non è possibile, non te mi dici, ma io mangiare. No, non è possibile mangiare poco e bene e spendere poco, tecnicamente. Il problema è spendere tanto e mangiare male. Quello può capitare, ma lì ci sono altri discorsi su mode, su cose, su tante cose, insomma anche lì bisogna stare molto, fare prestare molta attenzione. Vorrei salutare che qui almeno a Bottano, per fortuna, per quel che riguarda la carne, abbiamo degli ottimi macellai che si procurano la carne dalle valli, quindi tutto il macellato in zona di alta qualità, e io non trovo che sia rispetto a quello che si ottiene. E quindi noi abbiamo una grande possibilità di scelta, secondo me, di fare la scelta per la qualità. Sì, laddove non c'è qualcuno che ne approfitta. Io faccio un prodotto di qualità, per cui lo faccio pagare delle cifre astronomiche. Io sarei per la democratizzazione della qualità. E una possibilità è attraverso i gas, una possibilità è attraverso anche l'autoproduzione e il baratto, come dicevo prima. Sì, gas? Ce ne sono una quindicina almeno a Bolzano. sì, no, siamo veramente in tanti. Attivi attivi, una decina sicuro. Una volta avevo fatto un gas gourmet, naturalmente. Ma è una fissazione. Si può fare anche quello. Comunque andare a gas è una cosa bellissima. Poi si può discutere su tante cose, prima il gas è una forma anche di conoscenza, di riscoperta del valore etico del cibo, che è molto importante. Diciamo che una parte bella del gas è avere, conoscere due o tre produttori, magari piccoli, magari Benjamin, che fanno una carne di qualità molto alta, e dire che siamo 5, lo compriamo e ce l'abbiamo. E poi usarli anche questi prodotti, bisogna anche usarli questi prodotti, usarli anche bene, magari sapendo cucinare, trasformare in una certa maniera, tutto si può riciclare, tutto si può riusare, se fatto con intelligenza. Quella è un'arte poi, che non tutti sono in grado di fare, però insomma chi si può avvicinare. Io conto anche sul baratto di competenze, quindi se una cosa che io non so fare me la insegni tu e ti insegno qualcos'altro io. Angelo, prego. Uova e patate nella tradizione della tua vita. Allora, siamo una storia contentissima. Intanto l'uovo della tradizione germanica tedesca ha un ruolo molto simbolico. Non per niente è il prodotto simbolo della Pasqua, insieme al coniglio di Pasqua, che è una roba pagana, non è esattamente una cosa cristiana. È una delle reminiscenze pagane della cultura di questi giorni. Il grande coniglio, il solstizio di primavera, insomma, è tutto incorporato in queste figure del coniglietto pasquale, questo innocente coniglietto pasquale, che per tanti innocente non è, che porta la primavera, il figlio, i riti pagani, insomma, sono tante cose della cultura delle foreste germaniche, questa cosa qui. E poi c'è l'uovo è il simbolo della vita, quindi è sempre un ruolo molto importante, è presente nel naturalmente nelle feste più importanti, la Pasqua, i Santi, così come oggetto di scambio, contiene la vita, è il cibo che dà inizio alla primavera, al ritorno alla vita della natura, no? Poi naturalmente l'uovo è a base alimentare molto importante dei canedri, perché è bagno di pasto del canedere, quindi è un elemento proteico molto fondamentale, e è presente nell'aria come le galline, perché sono uno dei componenti dell'animale domestico. E le patate arrivano attuali nel 1600, stavo parlando qualche giorno fa con uno dei più grossi esperti di patate, che è un signore di 93 anni, che è stato l'unico, pochi lo sanno, che ha fatto che è stato uno dei maggiori conosciuti esperti italiani di storia della patata e anche di coltivazione della patata. E arriva nel 1900 ed è un prodotto che prima non incontra un grande successo, comincia a diventare un prodotto di successo quando arriva la fame, con dei periodi di carestia, perché uno dei pochi prodotti presenti. Non è così facile, ed è un prodotto che viene introdotto verso il 1917 al suo massimo, il picco massimo, quando l'impero sovietico è in guerra, la guerra sta andando male, bisogna incrementare l'autoproduzione, allora si dice, vi dandiamo questi libricini che vi insegniamo a coltivare la patata bene, perché non è così semplice coltivare la patata, è un prodotto che si è dato subito alla patata, perché è stato l'unico, cioè ben due consorzi, in italiano diretto da Giovanni Diavene, questo grandissimo esperto, uno tedesco che poi rimarrà quando il consorzio italiano chiuderà verso la metà degli anni 80. È un prodotto che quindi i contadini di montagna, nella politica agroalimentare tirolese, gli viene affidato questo po' di coltivare le patate, ed è un prodotto che ha un grande successo. E poi entra lentamente a far parte degli usi, come tante altre cose, non è così antico come si ritiene, ma diventa una componente molto importante. Un toglifame molto molto importante. Una cosa rispetto alle uova, che me l'ho scoperto soltanto perché abbiamo un contatto con un produttore di Bolzano di uova, è che le galline adesso non stanno più producendo uova. Esiste la stagionalità anche di questi prodotti, e queste sono anche delle scoperte molto interessanti che si fanno con il contatto diretto del produttore. Noi fino a febbraio non avremo uova. Perché questo contadino lascia libertà. fa una coltivazione, fa sì, un allevamento naturale. Sì, un allevamento a terra, libero, sì, all'aperto e all'interno di un campo biodinamico, per cui sì, rispettano, vengono rispettate la stagionalità anche della gallina. Bello, molto bello. Sarà doloroso per chi vuole mangiarsi biscotti, in realtà. Quello è senza Savona, ci sono varie alcune ricette tradizionali del Savona, non so, di tradizionalità comunitaria. I vegani sono contenti. I vegani sono contenti, ma i vegani, attenzione, i vegani sono molto bravi, io sono favorevole, nonostante sia un gourmet, io sono sempre stato attratto e molto interessato a tutto quello che è la cucina vegetariana, anche la cucina del futuro, anche se è una cucina antichissima, e anche dei vegani. Il problema dei vegani non sempre sanno cucinare benissimo, perché noi fanno dei pesticidi tremendi per limitare i prodotti, fanno delle cose che io mi dico, come fai a mettere in una, ho preso una ricetta in una torta alla menta, con una specie di gelatina di menta, usare gli 8 cucchiai di maizena, l'occhio di scaldare, prendermi la cameo, la faccio così, perché non è che cambia niente se mi metti 8 cucchiai di maizena dentro per farne la gelatina, capito? Scusa. Colla di pesce, ma aga, usiamo aga. Funziona bene, l'ho provato nelle mie sperimentazioni per il libro, mi sono divertita, è pazzesco aga, ragazzi. Che non sia abbastanza efficace. Sì. C'è qualche domanda? C'è qualche curiosità? Io scommetto che so rispondere. Se non so rispondere, ho un bicchiere di vino della cantina di Rosano che ci sta aspettando là dietro. Io avrei una. Prego. Avrei tantissime domande, però cercavo di capire di tutti questi alimenti che in pratica poi ci vengono a casa, sulle tavole, insomma, dove sta la fregatura? Perché ci deve essere qualcuno che fa dei controlli, no? Io cerco di pensare, a prescindere dal chilometro zero, che può essere Sorrentino e può essere insomma i posti più vicini che tutti conosciamo. Però di capire come vengono cresciute, ad esempio, le erbe o cose di questo genere, non sappiamo esattamente le concimazioni che fanno, i fertilizzanti che utilizzano, perché la cosa che non si dice, e mi piacerebbe dare le risposte, io da piccolo ricordo, deve prendere l'insalata, c'era la lumachina dentro, oggi non c'è la lumachina, insomma, per intenderci. No, ma non perché la voglio, insomma, no? Ma qualcosa è cambiato. Allora, il problema è chi in qualche modo può garantire, che tipo di controlli ci sono, insomma, sia a livello artigianale che a livello industriale, perché effettivamente, mentre in certi altri settori c'è un controllo rigido, estremo, io posso pensare che nell'ambito proprio delle insalate, tanto per dargli un nome, è molto minore. Io non ho mai visto che si parli di un'insalata DOP, no? Adesso esagero ovviamente, no? Per intenderci. Lascio rispondere a lei e poi dico la mia. Io a queste domande qua mi sono risposta da anni, nel senso che la mia strategia è appunto contattare direttamente il produttore. Conosco il produttore, se ho tempo, se riesco, vado nei suoi campi, vedo come lavora, lo guardo negli occhi e mi fido. Chi non può, non vuole, non sceglie questa cosa qua. Già quello che mi stai dicendo, scusa se ti interrompo, per guardarlo negli occhi mi fido, insomma, è già un passaggio delicato, insomma, perché oggi gli occhi, insomma, li sanno utilizzare molto bene i venditori, no? Si capisce chi ti prende in giro, si capisce. Diciamo che attraverso i gas si permette di ricostruire anche delle relazioni umane di fiducia, basate anche sullo sguardo. Io sono sicura che si riesca a capire. Se uno poi non vuole entrare in questo meccanismo qua dei gas, eccetera, ci sono dei marchi vari ed eventuali. Io sono molto scettica sull'uso del marchio, sui controllori dei marchi, eccetera, però è il meno peggio. Uno si può eventualmente affidare a quelli, andare a comprare un'insalata a qualunque supermercato, garanzie ce ne sono poche. Sicuramente hanno visto molti pesticidi, ecco. Dopo 2 giorni sono marci. Sì, sono anche un po' vecchie, sono da tempo che le hanno raccolte, eccetera. Effettivamente, smettendo di comprare la frutta e la verdura al supermercato, ti accorgi di quanto ti dura la frutta e la verdura se la compri direttamente dal produttore. È una cosa impressionante, veramente un cambio completo di vita. Sono tutte scelte che un consumatore deve fare. Allora io sono tre livelli. Il primo me lo faccio da solo in salata, lo faccio fare al mio vicino ortolano, il pensionato di Cialone, quindi c'è un livello di controllo diretto. Ah, magari. Eh? Quello so. Sì, ma no, lo so. Anche lì non è vero, perché se ci rifacciamo ad esempio a quelli che così, sì, se andate a vedere gli orti dei cosiddetti pensionati, sì, no, ecco, allora se voi pensate la quantità di concime che mettono, perché c'è quasi no, una non ci bisogna fidarsi di c'è non bisogna fidarsi di no, questo no, è ragione. Lasciatemi finire perché è anche divertente la cosa, sì, no? C'è quasi una gara per far crescere prima il pomodoro, lo più grande più alto. C'è stato tutto sicuro. Io parlavo con i tecnici del consorzio, mi ha detto lì potrebbero non mettere concime per 10 anni e la roba cresce. Allora mi domando io, insomma, se questa insalata o il pomodoro della situazione, cioè quanto gonfio possa essere, insomma, no? Infatti non è che sia l'orto del contadino, l'orto del pensionato non è che voglia necessariamente dire orto sano, cioè sono cose che mi dicono i tecnici, no? Insomma, no? E allora io diffido anche un po' di questo, insomma, ma non perché gli voglio del male, insomma, no, ma è perché loro, per loro è anche un passatempo diversamente dal produttore che dovrebbe. Sì, diciamo così, ci sono tre vari livelli. Uno è quello del me lo faccio da solo, so cosa ci metto, o ciò una persona veramente fidata, chissà cosa. Secondo, c'è un prodotto, lo vado a comprare, dove lo vado a comprare? Nel negozio biologico, ad esempio, o nel gas. Grazie per il discorso più complicato, diciamo nel negozio biologico dove mi danno una certa garanzia attraverso dei disciplinari che sono più o meno seri, ma insomma, tendenzialmente lo sono, ciao, dovrebbe essere, sì. E quindi vado a prendere un negozio biologico naturale che vado sempre a chiedere, sono delle cose buonissime, fantastiche, e oppure in altre cose, quindi ciò la società ha disposto dei controlli, delle regole, e io mi confido in questo. Il terzo gradino sono i supermercati e la grande distribuzione, e lì naturalmente c'è un'agricoltura convenzionale che ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi vantaggi, non te ne indicavo perché ha abbassato i prezzi, ha reso il ciclo disponibile, ci sono tante cose su cui discutere anche in questo settore qua, e lì ci sono delle regole più o meno buone, però faranno bene queste cose, questo non è sempre sicuro, e naturalmente tanta gente non si fida e va agli altri livelli. Poi c'è un altro discorso, dove io ho detto, non è possibile, nel senso, non posso andare su un discarico, pagare la salata 50 centesimi, mettiamo al chilo, e pretendere che questa cosa sia sana. Io posso pretenderlo dagli altri livelli con sicurezza graduale, ma non posso pretenderla se vado a pagarla 30 centesimi, non è possibile, non è tecnicamente possibile fare una cosa buona che costi poco o molto poco, come noi siamo abituati adesso a fare, perché c'è il tempo, un tempo il 90% del reddito di un lavoratore era impegnato sul cibo, ci sarà un motivo se era il 90% e oggi è il 10% del nostro reddito che spendiamo. Certo, l'industrializzazione dei cibi ha avuto un effetto positivo, nel senso di rendere il cibo democratico, disponibile a tutto, migliorare le condizioni di salute di tanta gente, prolungare la vita, questo non bisogna dimenticare. Però la società è evoluta, dopo un primo passo di sviluppo, come succede nei paesi pre-industrializzati, fa un passo avanti e dice sì, però io il cibo lo voglio anche di una certa qualità, di una certa sicurezza, perché riguarda il futuro mio, ma soprattutto dei miei figli e della mia terra. Quindi questi sono passaggi importanti, non demolendo il cibo industriale perché in sé ha avuto degli effetti positivi, però non è il punto d'arrivo, è un punto di passaggio, devo dire. Punto di passaggio molto importante. Senza dimenticare anche il caporalato e tutte le persone che raccolgono i pomodori, sì, sì, a niente. Cioè, come si fa per dire che un'economia, adesso questo mi fa arrabbiare tantissimo, come si fa a pretendere che una economia, non parlo di prodotti del singolo prodotto, che un'economia sia sana quando per raccogliere un chilo, un'ora, un cassone di pomodori, pago chi lo fa 2 euro, non gli pago i contributi, lo sfrutto. Non è possibile, questa è un'economia malata, è un sistema in circa che ci sono talmente tanti passaggi, talmente tante ruberie, cose poco sane nel percorso di questo passaggio da dove viene prodotto a noi, che c'è un'economia falsata, sbagliata, basata sulle evasioni fiscali, sullo sfruttamento della propria. Questa è una cosa che non può durare, questa è una cosa che prima o poi, in un sistema che implode, lavoro, lo sfruttamento porta ricchezza, ma poi prima o poi implode. Non è possibile che una salsa di pomodoro costi 30 centesimi un litro, che quando dietro c'è un chilo di pomodoro, il costo che c'è. Circa che dietro c'è un'economia malata che è sbagliata. Insomma. Scusi, non ho capito, la faccia del pensionato dell'orto c'è la Tiberio, no? Perché no, no, no, me lo deve dire lei se c'è la pelle, me lo deve dire lei cosa usa. Io so. Dipende. Quando vede un suo vicino che arriva con le secchiate di roba, gli dico: tu non lo devi fare, non lo devi usare, perché mi inquini anche il mio orto. Io sono favorevole all'orto, io non lo metterei anche sul balcone, sono favorevolissimo. Io vado a prendere poca roba, cioè. Sì. Quello che penso, che dicono che facciano. Bene, farsi consigliare magari da qualche uno che. Io mi chiedo sempre quello che ti chiedo io, per sapere più o meno, però guardi che c'è uno che c'è un orto, ma le piante crescono che meglio di tutti, che guarda sul computer. Io avevo un vicino di casa che mi faceva una rabbia tremenda, un contadino che era un terribile. Io guardavo sotto il suo balcone, io c'avevo anche un po' di cose sul balcone, nel vaso, c'avevo il pomodino, guardavo sotto, questo c'aveva dei pomodori grossi così, delle foglie di basilico, dico, ma che le fa crescere il basilico così? Delle foglie di basilico che sembrano delle foglie di banana. Io ci rosico, che cosa ci metti? Niente. Non ti vedo che non ci metti niente, non può essere solo la mano. No, ci sono sì, qualità di pomodori adesso che non lo so dire. Sì, non lo so così, però io dico sempre, quelle piante di insalata, le ho testate prima io e lì dopo, e lui si premate molto prima di me. No, c'è qualcosa che non va. Sì. Daniele. Grazie signora. Se qualche giovane come me volesse prendere la scrittura, o anche come me, non ci riesce. So che a Milano esistono queste possibilità, perché in realtà non esiste. Esistono degli orti condivisi in zona del semi-rurale, però sono proprio condivisi, nel senso che si pianifica insieme, non c'è niente di tuo personale. Lì ne fanno, poi ci sono degli altri esperimenti. E lì oddio, l'associazione delle donne Nissa. Ah, le Nissa? Sì. Perché io ce l'ho qui a Sant'Antonio. Sì, poi ci sono dei ragazzi, però adesso non stanno più facendo delle cose in associazione, come si chiamava, comunque, che hanno addirittura preso in affitto, in realtà gli hanno prestato degli orti in centro a Bolzano, nascosti che non si vedono. Dei miei amici hanno preso in gestione degli orti di una famiglia di, credo che siano prevalentemente vignaioli in periferia a Bozzano, gratis, perché avevano troppi figli e non riuscivano a starci dietro, e hanno trovato un annuncio su Dolomiti, tipo. Per cui le possibilità ci sono, non c'è un programma provinciale o comunale per i giovani, no, quello non c'è proprio. Manca. Però ci sono un po' di tentativi dal basso di fare questa cosa, e donne in salsa più rurali è un po' più clamoroso. Ma questo mette bene anche loro? Poi io sono dedicati ex comunitario, comunque. No, necessariamente, a parte tutti più che altro, più dedicati ex comunitario, sì. E poi anche a Mazzatura Pieve adesso ci sono degli orti nuovi, attraverso l'associazione La Vispa Brevi. Sì. Voleva fare una domanda alla ragazza? Io volevo chiedervi una cosa, magari ne avete già parlato, ma che sono perso. Ci sono, per esempio la Mila fa questa linea di là di latte senza lattosio, c'è più una certa tensione. Ad esempio, io lavoro fuori tutto il giorno, spendo l'aria, non ho tempo di prepararmi da mangiare, vado in latteria, ci sono i panini già pronti, non ce n'è uno che non abbia formaggio. Quello è bene. Se tu chiedi senza formaggio ti guardano male, come per dire, ma come sei spazzinosa, e io, cioè, vorrei dire, ma piace, però io non posso mangiarlo. Cioè, capisco che in Adige togliere il latte è una cosa che è simile, però tantissimo. forse ti metti anche il formaggio dentro nei cibi già nei primi piatti. Allora nei ristoranti importanti questa cosa viene sempre più indicata. Ci sono le associazioni dei ristoratori e degli albergatori che fanno tantissimi corsi di formazione per il loro personale e per i cuochi, per insegnare anche cucina gluten free, per l'intolleranza. Sono molte cose, se tu vai a vedere nei siti della delegazione. C'è una persona che devi cercarlo, però se si può trovare anche quello, ci sono anche addirittura dei piccoli, non dei fast food, se la tua latteria non te lo fa, glielo chiedi, perché loro potrebbero anche farlo. Magari c'è solo più inizia tante volte. No? C'è un bar che pian piano la gente andava lì, si poteva, cioè voleva essere mangiato, però quando dicevano che non potevano intolleranza, non è stato mangiato. Certo, ma non è automatico, ma è una cosa che spesso col tempo noi consumatori possiamo spesso spingere in questa direzione. Si sta diffondendo. Si sta abbastanza diffondendo. Ho visto anche nei menu proprio cominciano ad indicare come magari sia è molto più d'uso in Germania, eccetera, indicare proprio tutte le possibili allergeni. Non ancora, ma si sta andando in quella direzione, questo sono sicura, si sta andando in quella direzione. Pian pianino si sta. Posso? Sì. Posso? Io, come detto, ho portato qui due produttori dei prodotti simboli più importanti. Pensate anche il vino e lo Speck, formaggio. Uno è più o meno una macella, Benjamin Kral, che poi farò vedere come appunto, è uno degli enologi della cantina di Bolzano, che è una delle migliori cantine della tua quindi d'Italia, che è da dire cara. Ti rubo il microfono, vabbè che forse preferisco parlare senza un tono di voce abbastanza alto. Mi riallaccio solo due parole sulla storia della viticoltura in Alto Adige, visto che si è parlato anche di tradizione. Quando i Romani sono arrivati in Alto Adige con le loro ancore di terracotta, i Romani hanno la nomea, insomma è anche vero, il fatto di aver portato in tutta Europa con l'espansione dell'impero le varie forme di allevamento, ma anche le varie varietà di vite, sono arrivati in Alto Adige, appunto con queste anfore fragili, hanno trovato già una viticoltura ben insediata e che lavorava già con le botti di legno. Questo significa che già a quel tempo la produzione del vino non era solamente per autoconsumo, ma era proprio un bene commerciale. Quindi si parla del 70-80 d.C., quindi tradizione veramente molto molto antica. Erano i retti che se ne occupavano? Sì, erano, la popolazione era tra i retti, sì. E l'età del bronzo più o meno, quando si sono trovati diciamo dei vinaccioli, quindi semi dell'uva, ma in quantità tali da far capire che era una produzione enologica importante, non un consumo familiare. La storia del vino poi si è evoluta abbastanza lentamente, i passi importanti forse sono quelli recenti invece, diciamo dalla crisi del metanolo anni 70-80, anche l'Alto Adige ha iniziato a fare una produzione di alta qualità. L'Alto Adige produce solamente, anzi un po' meno dell'1% del vino fatto in Italia. 0,7. Però a livello di carte dei vini, di enogastronomia, di riviste, eccetera, di premi soprattutto, è forse tra le prime tre province italiane. Quindi sicuramente si fa poco, relativamente poco, ma si fa molto bene. In Alto Adige abbiamo in questo momento poco più di 5.000 ettari vitati, e per dire la Valpolicella da sola ne ha di più, per fare un confronto. Parliamo di vini territoriali, proprio di Bolzano, più che di Alto Adige, e quindi Lagrain, poi possiamo assaggiarlo, anzi forse il Lagrain, perché Lagrain Taber, Lagrain Riserva, uno dei vini più importanti della città, se non forse anche della provincia, e il Santa Maddalena, forse un vino un po' meno importante dal punto di vista della vetrina enologica, ma sicuramente un vino di uso quotidiano e che sta anche iniziando a farsi conoscere ed apprezzare sul panorama enologico di tutta Italia. Mi riallaccio, mi è venuta in mente una cosa che pensavo prima, sempre al discorso dell'evoluzione dell'agricoltura, anche le cantine sociali in Alto Adige nascono in realtà verso la fine del 1800, proprio per contrastare il potere forte che avevano i commercianti del vino, il contadino, il viticoltore, coltivava l'uva, faceva il vino, lo svendeva al grossista di quel tempo, che poi riforniva le varie osterie. Il contadino guadagnava veramente molto poco. Per questo motivo sono nate le prime cantine sociali, che unendo le forze sono riuscite a produrre in quantità tale da riuscire anche a commercializzarlo. 1800 e poi la più antica, 1892, era Ternoia. Anno era la più vecchia. Sì. Cantina Bolzano è abbastanza recente, perché è una fusione tra due cantine storiche, Bolzano, Gries, nata nel 1908, e Santa Maddalena, che invece è del 1930. Dal 2001 questa nuova grande realtà, insomma, è diventata una realtà molto importante. Sì, anche molto buona. E per fortuna adesso si trasferisce fuori, perché questa cosa della cantina dentro al tessuto urbano, se non poteva più, come il vino sfuso, è una roba degli anni 70, una cantina importante con dei cosi produttivi, meccanismi produttivi così forti, come ha una cantina sociale, trattori, cose, dentro al tessuto urbano non aveva più senso. Appoggiano le cose per costruire, per autorizzare, hanno bisogno di tempo, finalmente dopo 10 anni va lì, pare sarà sicuramente una cosa di grande richiamo, bellissima, io sono molto favorevole a questa cosa, questa novità, e speriamo è stata approvata e verrà costruita di fronte all'ospedale, poteva essere così a Santa Maddalena. Si già gli scavi. Sì, diciamo la scusante è quella che è stata la città a inglobare la cantina, c'eravamo prima noi. È vero, quello è vero, è vero. La cantina di Gries, dove ha sede la cantina di Bolzano, vera e propria, dopo che quella di Santa Maddalena comunque è stata confluita completamente in quella di Gries, adesso per fortuna la nuova cantina, l'ultima, perché quasi tutte hanno costruito, hanno rinnovato tutto, perché fare un buon vino oggi significa avere anche delle strutture adatte, delle tecnologie moderne, se no il buon vino non si può fare a certi livelli. Per fortuna adesso, il giorno dopo di aver venduto, hanno cominciato già a scavare, dopo 10 anni di attesa, insomma, non se ne poteva neanche più. Io quando ogni tanto vedevo il capo dei Kellermeister, che è Stefan Filippi, e allora gli dicevo, come stiamo messi? Adesso cominciamo, e poi c'era un altro. Scusa, l'ultima presentazione è Benjamin Clark, il nostro artigiano gourmet, che fa questo specchio meraviglioso con i suoi maiali, che ci illustrerà brevemente. Non solo specchio. Il nostro omaggio è a Valsa Regina, appena su 1540 metri, adesso alleviamo circa 130 maiali, tutti all'aperto, sia inverno sia estate, sono sempre fuori, come l'anno scorso per esempio mezzo metro di neve, meno 20 gradi, maiali sempre fuori. Con gli sci però. Anche con gli sci, certo. Non sappiamo insegnato da lui che è stato. Poi per esempio il nostro specchio insalato con solo col sale marino, non usiamo le spezie con conservanti aggiuntivi, e viene poi anche stagionato minimo 6 mesi, diciamo la parte della spalla, pancetta, carè, quelle cose, il pezzo del prosciutto, il segerspec, noi lo lasciamo minimo un anno in stagionatura, può darsi che rimane anche un anno e mezzo o 2 anni, non è che lo vendiamo come diciamo l'industria, che ti dice sono 6 mesi, però alla fine avrà 4 mesi. E niente, poi facciamo anche i würstel insaccati cotti, insaccati crudi, leberkäse, meraner, anche la Schinkenbrust, Lyoner, provo di fare tutto, diciamo, non solo specchi, quelle cose, diciamo tutta la paletta. Abbiamo anche carne fresco, perché macelliamo quasi ogni settimana 5-6 maiali che vengono poi lavorate nella nostra macelleria. 5-6? Dipende. Il prodotto li trovate al mercatino Piazza Erbe, scusa. Piazza Erbe, c'hanno un punto vendita, Piazza e Piazza Mazzini. È aperto da lunedì fino a sabato, tutto il giorno, se no ci sono in Piazza Mazzini sul mercatino contadino il martedì mattina, o se no il sabato su a Salentino Paese, mezza giornata, o se no direttamente da voi sul naso. Che bello anche andare a vedere. Dove appena? Un po' prima di Penes, Penes di fuori, un chilometro prima di Penes c'è una stradina che va su alla sinistra, Alza Penes, grazie. Il naso si chiama? Unterkanzerhof. Grazie. Ecco. Ma Bolzano si chiama all'inizio sulla sinistra dal Bolzano? No, no, sì. A Penes. Dopo Tarentino ci mette il banco numero 3, se lei arriva dal via Moseo, su a sinistra. destra, il secondo, secondo banco alla sinistra. Un banco, certo. Grazie.